Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, benvenuti a Magazine 24, appuntamento il sabato e la domenica con i settimanali e i mensili italiani e stranieri. E questa mattina voglio proprio cominciare con un settimanale straniero da Newsweek e vi parlerò ancora del matrimonio di Will e Kate, evento mediatico, il primo evento mediatico di questo fine settimana in realtà, perché il secondo poi sarà domani la beatificazione di Giovanni Paolo II, ma ve ne parlo perché c'è un approccio inconsueto su Newsweek che forse vale la pena di ascoltare, di cogliere per così avere una voce anche un po' diversa, perché Newsweek ha chiesto a Jan Jack, che è un giornalista e autore di un volume che si chiama Il paese che una volta era conosciuto come Gran Bretagna, un commento, un parallelo tra le nozze della madre di William e le nozze adesso di William, cioè la sostanza dell'articolo, che occupa due pagine nel Newsweek, è proprio: ma che cosa è cambiato dal matrimonio di Carlo e Diana al matrimonio di William e Catherine? Che paese avevano davanti, avevano attorno Carlo e Diana? Che paese hanno attorno oggi William e Catherine? E l'analisi che ne fa Jan Jack, come forse avete intuito dal titolo del suo libro, non è incoraggiante, perché lui dice sostanzialmente, pur ammettendo che il declinismo, così lo definisce, il declinismo è una sorta di tratto caratteristico dei britannici, che da decenni, da secoli quasi ormai preferiscono pensare spesso alla loro nazione come una nazione comunque in declino da ex potenza coloniale, in declino da potenza economica, eccetera. Però poi Jack, nella sua disamina, effettivamente porta dei dati, delle evidenze che così rendono difficile contraddire la sua tesi, e cioè che 30 anni dopo le cose non sono cambiate in meglio, e che quindi il supporto mediatico, il momento mediatico in cui va a cadere questo secondo matrimonio, è vissuto molto diversamente da una nazione che ha molte più difficoltà specialmente economiche, di quante ne avesse 30 anni fa. Allora vi leggo qualche rapidissimo brano. Naturalmente lui ricorda l'aspetto appunto di copertura mediatica, l'aspetto del merchandising, quindi tutto quello che volete, dalle tazzine alle spillette alle stesse bandiere vendute, e dice insomma: in questo, per un giorno intero la Gran Bretagna giocherà, l'articolo ovviamente è stato scritto prima, giocherà il gioco che il mondo ama farci giocare, è quello della Lilliput reale, quindi una sorta di come dire, di Disneyland, se volete, di casa di bambole, insomma, che viene così assegnata a questo momento del matrimonio. Ma dice: potrebbe essere il miglior ruolo che ci è rimasto da giocare, si chiede Jack. Dice: beh, effettivamente qualcuno tra gli ultimi Gheddafi ci ha detto che la Gran Bretagna non esiste più, è una traccia di quello che era abituata ad essere. È vero anche che il paese, nonostante questa analisi ovviamente sia l'analisi di un dittatore per di più sotto attacco dalla Gran Bretagna, ma è vero che il paese, come scrive Jack, sta affrontando il più grosso raffreddamento nello standard degli stili di vita dagli anni 20, e il budget governativi, i budget pubblici sono stati ridotti un po' in tutte le direzioni, e ci sono centinaia di migliaia di lavoratori del settore pubblico che vedono ridursi o l'impegno o addirittura rischiano di perdere l'impiego. Le tasse stanno salendo, si stanno riducendo anche i benefici dal punto di vista del welfare, cioè dello Stato sociale. Tutto questo, insomma, non sembra costituire un bel parallelo. Allora si sposta a 30 anni prima, dice 30 anni fa, quando la coppia dei genitori di William si è sposata, la Gran Bretagna era un paese che non era cambiata così tanto rispetto alla incoronazione della regina nel 1953. Tra l'altro lui ricorda: io stesso ho coperto quel matrimonio, ho seguito quel matrimonio come reporter. Ma la grandeur che ancora permeava il matrimonio di Carlo e Diana, è finita con il nuovo secolo. Molti anche degli oggetti, dei dettagli che hanno accompagnato il matrimonio di Carlo e Diana, il treno reale, lo yacht, eccetera, hanno mutato destinazione. Lo yacht, ricorda lui, è diventato un museo, il treno reale ormai è usato molto raramente e soprattutto sono cambiate le condizioni economiche. Si sono perdute molti posti di lavoro, si sono perdute molte capacità anche produttive della Gran Bretagna. Al momento attuale, dice, sia l'industria estrattiva, la costruzione delle navi, l'industria tessile sono pressoché svanite. Quello che resta è per lo più nelle mani di aziende straniere. Sarebbe comunque un errore dipingere il 1981 come un'età dell'oro. Anche in quel momento era chiaro che c'erano delle divisioni sociali, c'erano delle tensioni molto forti, però appunto le condizioni economiche sono decisamente peggiorate se confrontiamo il momento in cui si sono sposati i genitori di William e il momento invece attuale, ieri, quando si sono sposati appunto William e Catherine. Allora, visto che parliamo di giovani, in qualche modo due giovani che si sono sposati, quindi ai quali va naturalmente i nostri auguri, una piccola curiosità che trago da Vanity Fair, perché su uno studio proprio condotto in Gran Bretagna, quindi restiamo in qualche modo nell'ambito del matrimonio del secolo, così come è stato definito, risulta che le donne si vedono vecchie, cominciano a sentirsi anziane già a 29 anni. Non so su quali basi scientifiche, questo non viene spiegato da Stefania Mascetti che accompagna questo, che appunto spiega questo studio su Vanity Fair, dice mediamente le donne si sentono vecchie già a 29 anni e in particolare al comparire dei primi capelli grigi. Per gli uomini invece la percezione dell'invecchiamento avviene soltanto intorno ai 58 anni e quindi questo fa sì che per gli uomini la giovinezza duri il doppio. Poi altri segnali di invecchiamento sempre per le donne sono la pelle che comincia a cedere, le forme che si fanno meno procaci ad esempio a causa di una gravidanza. E poi un dato che appunto viene da questo studio che viene solo definito condotto in Gran Bretagna è la sensazione, dicevo, di somigliare sempre di più alla propria madre. Per gli uomini, che sono probabilmente meno schiavi di un modello patinato di bellezza, le motivazioni sono invece più semplici. Due terzi di noi, pardon, si fanno condizionare dalle performance amorose. Però anche una donna su cinque ammette di essersi sentita un po' passata di moda la prima volta che ha protestato perché c'era il volume troppo alto della musica in un bar. Dalla bellezza di oggi alla bellezza di molti secoli fa. Storica, in edicola già il numero di maggio di Storica, rivista del National Geographic. Tra i molti servizi interessanti, i segreti di bellezza nell'antica Grecia, da cui si scopre che le donne dell'antica Grecia utilizzavano dei cosmetici molto pericolosi spesso e quindi, diciamo, pur di piacere mettevano anche a rischio la loro salute. Questo perché? Perché l'ideale, tutto ruotava attorno all'ideale della carnagione che doveva essere chiara, doveva essere bianca. C'è un epiteto che usa Omero che è Leucolenos, che vuol dire dalle bianche braccia, e questo termine è associato spesso, riferisce appunto Storica, al ruolo di sposa e di madre, dà una connotazione positiva al personaggio, quindi una donna che veniva definita dalle bianche braccia era una donna che veniva ammirata, rispettata per la sua virtù, per la sua onestà. Nell'articolo di Raquel López Melero, che è uno storico appunto, si spiega anche che appunto questa convinzione del candore della pelle, questa necessità di apparire candide per essere belle, portava ad utilizzare appunto dei correttivi per l'aspetto fisico. Quindi ci sono delle testimonianze che ci spiegano come nella Grecia classica sul viso si applicasse il bianco di piombo o biacca, che è un carbonato di piombo molto comune, però l'impiego prolungato di questo prodotto risultava dannoso perché distruggeva la struttura dell'epidermide e poteva anche avere degli effetti assolutamente pericolosi, quasi letali o anche letali se ne venivano inghiottite delle particelle che poi appunto interagivano con gli acidi gastrici. Un altro prodotto fortemente tossico usato all'epoca era il solfuro di mercurio, chiamato polvere di cinabro, utilizzato per rendere più duratura la pasta con cui si tingevano di rosso le labbra e le guance femminili, anche qui per cercare di far risaltare naturalmente questo candore che era percepito all'epoca appunto come un momento di bellezza. Naturalmente il fatto che fosse così apprezzata la carnagione chiara è dovuto anche al fatto che stava a indicare che la donna non aveva bisogno di lavorare all'aperto, non aveva bisogno di lavorare nei campi, e quindi questo era anche indizio di una condizione sociale migliore rispetto alla media. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, rassegna sabato e domenica dei settimanali dei mensili italiani e stranieri. Continuiamo in qualche modo a parlare di donne. Abbiamo cominciato parlando della sposa di ieri, di Catherine, e abbiamo poi parlato della percezione dell'età per le donne, cioè quando comincia una donna a sentirsi non più giovane, secondo appunto una ricerca condotta in Gran Bretagna già a 29 anni, e poi della bellezza nell'antica Grecia, che aveva come canone, appunto, abbiamo detto, questo aspetto della carnagione chiara, chiarissima, bianca, come appunto riferisce anche Omero. Parliamo di donne, ma per dare invece tutt'altro tipo di notizia riguardo a diventare donne troppo presto. È un tema che si rincorre già da qualche anno in realtà, e di volta in volta viene intercettato dai magazine, anche dai magazine che leggiamo qui il sabato e la domenica. E sfogliando questa settimana con Anita Panizza, appunto, abbiamo ritrovato questo tema di nuovo su Nouvel Observateur. In Francia torna questo che potremmo definire allarme dal punto di vista medico della pubertà anticipata, ed è un tipo di segnalazione allarmata sia per la questione, diciamo, sociale e culturale, sia per la questione fisica. Cominciamo da questa seconda, cioè proprio un'età puberale che sembra abbassarsi sempre di più. Scrive appunto Marie Vatton: questo è un fatto ormai assodato, ci sono moltissimi studi che lo provano, l'età puberale si è abbassata in una trentina d'anni, prima era attorno ai 12 anni e mezzo, adesso già lo spuntare dei seni comincia molto molto prima, ci sono addirittura dei segni intorno ai 7 anni, questo riguarda le bambine, riguarda solo una piccola percentuale di bambine, ma tra i 7 e i 10 anni oramai si assiste a appunto all'apparire dei primi segni della pubertà. Lo conferma anche Charles Sultan, che è il responsabile primario di endocrinologia a Montpellier. Dice: oramai noi ragioniamo intorno a un'età media di 9 anni e 3 mesi. Naturalmente, come tutte le medie sono fatte per essere smentite, come sappiamo, comprendono coloro che si sono sviluppate prima, coloro che si svilupperanno più avanti. Come mai però questo sia successo? Come mai stiamo assistendo a questo fatto? Dice: soprattutto c'è un dato che delle bambine più in carne possono anticipare la pubertà, proprio perché essendo in sovrappeso il tessuto adiposo sintetizza gli estrogeni più rapidamente, e quindi porta a una pubertà anticipata. Però ci sono naturalmente anche gli altri grandi accusati: l'ambiente, i pesticidi, gli ftalati che sono nelle plastiche e altre sostanze ancora. Ci sono addirittura gli studi che dicono che passare molto tempo davanti alla televisione potrebbe anticipare l'età puberale. Di questo si occupa appunto Marie Vatton, ma la stessa Marie Vatton firma anche un'altra inchiesta accanto a questa, complementare a questa, in cui segnala l'altro aspetto che vi dicevo, cioè l'aspetto culturale, perché non si tratta solo di uno sviluppo fisico, si tratta anche di uno sviluppo dei comportamenti, quindi il fare uso già dei cosmetici, il truccarsi, l'atteggiarsi a donne adulte. Tutto questo appunto dà questo titolo l'epoca della bambina donna, che è l'inchiesta di Nouvel Observateur. Addirittura ricorda che nel Natale scorso un magazine, Vogue, nell'edizione francese, per una sua campagna pubblicitaria ha mostrato delle bambine molto truccate, ultra truccate, che si mettevano in posa come delle donne adulte. Ci sono stati anche, ovviamente, sono state delle proteste, 200 pediatri hanno segnalato come si andasse verso una ipersessualizzazione dei bambini nella pubblicità. Questo è un allarme che abbiamo percepito anche in Italia, che percepiamo anche in Italia. Certo, anche la stessa televisione, come ricorda Marie Vatton, contribuisce a diffondere questi comportamenti, questo scimmiottare gli adulti, le adulte soprattutto, che porta poi, che si congiunge poi all'altro aspetto, quello fisico di cui vi dicevo. Restiamo in età minorile, perché su 7 questa settimana abbiamo trovato questa segnalazione: aumentano i reati tra i minori. Lo scrive Marta Serafini su 7 con il Corriere della Sera da giovedì. E si abbassa l'età del disagio. Cresce la delinquenza minorile, lo conferma l'Eurispes, scrive la Serafini, secondo cui il numero dei minori entrati nelle comunità di recupero da 1339 nel 2001 è arrivato a 2100 nel 2009. Quindi si è quasi raddoppiato. La fascia d'età più rappresentata è quella dei 14-17 anni, a dimostrazione di un abbassamento anagrafico del reato. Però poi si continua a commettere reati, questo risulta dalle statistiche, in maniera esponenziale fino ai 25. Il furto è il reato più comune. Tra l'altro qui risultano condannati 175 italiani e 118 stranieri, questo a così sfatare qualche pregiudizio fastidioso che potrebbe gravare su questa considerazione. Sono però anche molte, trattandosi di minorenni, le condanne per omicidio. Ci sono state nel 2009 23 condanne per omicidio e 21 per tentato omicidio. E poi ci sono i casi di violenza sessuale generalmente commessa su altri minorenni. I maschi delinquono di più, l'83% dei rei è di sesso maschile, però risulta da un'indagine di Eurispes e Telefono Azzurro che il 13,8% delle bambine ha riferito nel 2009 di essere stata vittima di bullismo da parte di una coetanea. E cambia anche l'atteggiamento, questa è la cosa forse più preoccupante di tutte, l'atteggiamento di chi assiste a episodi di bullismo, perché aumenta, secondo quello che ci dicono le statistiche, la percentuale di coloro che restano indifferenti. Il 5,1% nel 2008 dichiarava di restare indifferente di fronte a episodi di bullismo, è diventato addirittura l'11,1% un anno dopo, nel 2009. C'è addirittura una percentuale crescente, ohimè, che si diverte nell'assistere a episodi di bullismo. Ne veniva segnalata il 9,5% nel 2008 e era diventato un 13% nel 2009. Naturalmente l'alcol, scrive sempre Marta Serafini su 7, è uno degli inneschi, una delle sostanze più utilizzate, e il legame tra comportamenti poi delinquenziali e abuso di alcol è molto stretto, come dimostrano anche altre statistiche sempre citate su 7. In tema di giustizia, ma per passare dalla giustizia di tipo penale a quella civile, sapete che da poco ha cominciato il debutto alla mediazione civile. La mediazione civile è un cosiddetto rito alternativo, cioè un modo per evitare i processi, appunto le liti civili, che come sappiamo sono molto lunghe, in Italia sono particolarmente lunghe. Il Sole 24 Ore vi propone in edicola il nuovo codice della mediazione civile, in edicola a 7 euro più il prezzo del quotidiano. Tra l'altro è un'utile guida anche per capire su che cosa, su quali materie si può fare già ricorso alla mediazione, quindi cercare l'appoggio di un organismo conciliatore, e su quali invece non si può ancora fare. È una riforma che ha suscitato, lo sappiamo, molte polemiche anche da parte degli avvocati, che hanno dichiarato la loro ostilità a questo cambiamento. Sta lentamente prendendo quota. Se volete saperne di più, c'è appunto questo volume del Sole 24 Ore. E chiudiamo parlando di tasse, perché da domani entriamo, in realtà da lunedì, domani sarà festa, da lunedì entriamo nel mese di maggio, che apre un po' la stagione delle tasse. Abbiamo chiuso il 7.30, allora vorrei parlarvi di tasse, ma da un modo un po' inconsueto. Parlo di 5 per 1000. Il 5 per 1000, lo sappiamo, è quella possibilità di destinare parte delle proprie imposte, la propria IRPEF, ad attività di sostegno sociale. Se ne occupa Vita nel numero di questa settimana, il numero del 6 maggio. C'è una vera e propria guida al 5 per 1000, con un focus anche storico, una rassegna storica che ci ricorda una cosa: che il 5 per 1000, nonostante le promesse dei governi anche di segno diverso, non è mai mai entrato stabilmente, non è mai stato stabilizzato nella normativa. Quindi il finanziamento poi del 5 per 1000 deve essere di volta in volta negoziato con decreti legge e risorse che si trovano all'ultimo minuto. Ci sono anche dei dati molto interessanti dove mettiamo il nostro 5 per 1000 e sul quanto ci esprimiamo. In totale ci sono scelte per 15 milioni e più di dichiarazioni. Le scelte espresse, cioè dove viene indicato esattamente un ente, sono circa 12 milioni. Quindi 12 milioni di noi indicano esattamente un ente a cui destinare il loro 5 per 1000. Tutto questo su Vita di questa settimana. Tra l'altro, l'Agenzia delle Entrate ricordava proprio ieri che il 7 di maggio è il termine ultimo entro il quale gli enti del volontariato e le associazioni sportive possono iscriversi agli elenchi del 5 per 1000 del 2011. E con questa segnalazione si chiude la nostra puntata di oggi. Grazie a Peter Bescapè questa mattina in regia, grazie ancora ad Anita Panizza. Se volete scriverci potete farlo a magazine24@radio24.it. A domani.